canale 10, CQ, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Non ci sono io. Chi è? Chi è? Sono nuovo, nel senso che... Siamo in macchina da pochissimo, è la prima volta che lascio. Ok, però mi sembra che sei in FM, aspetta un attimo. Dimmi. E come faccio a cambiare? Guarda, ho un barattino piccolino, per cominciare, dove c'è CBTA-HMG. No, non mi sentivi quando ho cambiato. Un po' fastino. Nessuno. Un po' meglio. Guarda, parla a vedere, prova a vedere, sì che ti sento. Ascolta, ma tu mi dici questo per questo? Sì che ti sento, ma adesso sei in AM. Ho cambiato io però, ho capito. Sono di quegli apparecchi piccolini che sono usciti adesso. Da... Come? L'RFI serve per diminuire il segnale in ricezione e lo squelch serve proprio per togliere i disturbi. Sì, ti toglie i disturbi, ti toglie, però i più bassi non li senti. Infatti, capito, aprilo tutto lo squelch, se no i più bassi non li senti. Ho capito. E al limite qualche tuo amico che lo conosce ti impara a usarlo quello lì. Io adesso quello che hai tu in macchina non lo conosco, quindi non. Se lo vedo di persona sì, ma se no non. Viene un po' difficile. E io sono a casa, capito? Dove sei tu? Tu in che zona sei? Siamo vicini anche. Però ci basso di radio anche, boh. Non è che c'è un pulsante, una manopola che c'è scritto Mickey Gain per aumentare la radio. Serviva. Ma sono apparecchi del cavolo quelli. No, forse ci siamo sovramodulati. Hai parlato quando stavo parlando io, forse. Non ho capito nulla adesso. Ma c'è il movimento. Non esci bene di radio, no, con quell'apparecchio. Ma pare che sei legato prima. Non ti ascolto bene, guarda. Non ti ascolto bene. Stai uscendo basso di radio e quindi non... Non è comprensibile quello che dici. C'è qualcuno all'ascolto? CQ10, c'è qualcuno all'ascolto? Sto lo senti? Sì, basso, basso, sì, incomprensibile. C'è qualcuno all'ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Hola, CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Cambio. Hola, hola, c'è qualcuno in ascolto? Sempre noi, ci senti? C'è qualcuno all'ascolto? C'è qualcuno? C'è qualcuno all'ascolto? C'è qualcuno? Fino adesso nessuno. Ciao Gabriele, hai sentito? Ciao Roberto. Allora, che si dice? Che si dice? Io sono un po' stanchino oggi, forse non lo so, il caldo presente, persistente, ma mi sento un po' stanco oggi. Dillo a me, sto facendo pure per salvatore, per carità. Ogni tanto ce n'è uno. Ho capito, stavi facendo un escavatore. Sì, facendo buchi. Tipo condannato, no? E anche con la catena con la palla. Ma ai tempi del coso, dei deportati. Ma scavi con cosa? Per l'agricoltura o scavi per altre cose? No, io ero contento che praticamente l'ultimo temporale, quello che c'è stato avanti ieri, non mi aveva fatto niente. E poi guardando meglio mi ha scassato il citofono e quindi mi ha fatto partire il cavo di collegamento che dava agli strumenti segnali strani, tutto incasinato. Quindi la canala, il filo non passa in un lungo tratto, circa 20 metri. E quindi canala nuova, cavi nuovi, pozzetti nuovi. Insomma, un lavoro da cani, per di più oggi è anche una giornata calda, fate il conto. Lo so, non era una giornata piacevole, magari era meglio la domenica pomeriggio, che domenica c'era quella brezzolina, oggi c'è caldo, ha fatto caldo. Sì, è un lavoraccio, infatti il tempo così fatto a picco e col moto picco anche usato. Il tempo di realizzazione sono almeno 3 giorni per fare tutti i 20 metri di canala, poi mettere la canala, mettere pozzetti nuovi, insomma non si finisce più, starne dietro un altro lavoro praticamente. Però è anche vero che questo ti può capitare anche a casa, ti arriva una scarica, ti porta il televisore magari costoso e siamo lì, ecco, quindi c'è poco da fare, in campagna sei più soggetto a queste cose. Non so, sei più isolato, magari in mezzo ai palazzi non è detto che scarichi su di te, trova il punto più alto, ma quando sei in campagna sei libero, aria libera, il fulmine appena trova un punto, tunk, e fa danni molto ma molto rilevanti. Io spero sempre bene quando ci sono temporali che non mi scarichi, se no mi sfascia, mi fa un danno enorme. Qua diciamo dal lato aereo non è mai successo niente, meno male, l'ho visto anche cadere vicino, se l'è presa contro un cespuglio, ma dal punto di vista elettrico ha disintegrato già due contattori. Quindi insomma c'è questo problema, nonostante ci abbia anche i termici speciali, no, antifulmine, però c'è anche questa cosa qua. Purtroppo è così, c'è poco, bisogna convincerci, dai. Un attimo, già passo al telefono, scusami. Che? Sì. Vabbè, Brittella. Brettella. Ciao Claudio, che stai cercando? Brettella non ce n'è. Non ce n'è Brizzelle qua. Vabbè, allora ho sbagliato il canale. Oh, Claudio, Claudio, va diga, sono a lingua fuori, guarda. Oggi ha fatto troppo caldo, stavo dicendo a Roberto, dell'inghippo citofonico, per carità. Cosa ti ha fatto, perché danno? Sì, il cavo, ho partito tutto il cavo, quindi ho direttamente rifatto tutto, o meglio sto facendo tutto, sono ancora col picco, sarà picco, diceva quello, scavando, e poi metterò il corrugato, pozzetti e tutto nuovo, già preso il cavo, eccetera. È una guerra, guarda, quando c'è qualche tratta che di quelle è un po' rompiscatole, si fa prima cambiare tutto che stare lì a cercare di infilare cavi che non passano e tutte queste cose. Oh, in lascia perdere, io ho avuto lo stesso problema appena arrivato nel Calvario e ho scavato e ho messo il corrugato nuovo, lo stai lì a... Capito? Ho passato a fianco e via, se no è un casino, cosa stai a perdere tempo a fare tracce e contro tracce e casini, ma lascia perdere. KK, avanti Roberto. Sono rientrato per un attimino al telefono. Ok, io lo so poi quando entrano le cose, poi basta farlo una volta per tutte, un bel corrugato grosso, quello antimartello, in modo che ci puoi lavorare bene, i pozzetti abbastanza vicini, non più di 10 metri, in modo che riesci a lavorare bene, così se non sta succedendo l'imprevisto riesci a lavorare bene. Ok, e Mecla, tutto a posto? Tutto ok, mi sono seduto adesso 10 minuti, ho acceso, vi ho sentito, sono entrato così a salutarvi, non è che mi trattengo molto oramai, lo sai, non è che ho più questa grande voglia, perché adesso ne vado fuori al sole, in veranda, fumiamo una sigaretta e niente, prendiamo un po' di sole ancora, dai. Va bene, ti saluto Roberto e ciao anche a te Gianfranco, ok, avanti Gianfranco. Sì, dimmi una cosa qua, da te com'è? C'è ancora un bel sole, perché qua vedo che pure picchia ancora. E... niente, ti posso dire un'altra cosa, mi sono dimenticato. Vabbè. Siamo mezzo rincoglioniti, no, qua c'è un bel sole, sta ancora bene, infatti adesso me ne vado un po' fuori, e niente, sta benissimo ancora, tranquillo, va bene, dai, avanti, vabbè, sì, tutto bene, tutto K e tutto Rogero. Fei, adesso però sentivo leggermente alternata, ti sta entrando qua, sono entrata di colpo, non ho capito cosa hai toccato. Alternata io? Sì, di colpo, perché era tutto pulito, poi piano piano sentito piano piano e poi aumentato, adesso si sente abbastanza nel sottofondo. Mi chiedi a Gianfranco, portante muto, a prova e te ne accorgi. Prova portante muto un attimino. Guarda a vedere. No, adesso niente. Non sento nulla. Adesso tu che no, un attimino, Clary, proprio non so se hai avvicinato il microfono alimentatore o qualcosa, adesso è tutto a posto, va bene. Vabbè. Se radio vecchio ogni tanto lo fanno questi tunzu, ma non è un problema, dai. Tanto, per quello che la uso. Va bene, vi saluto, buona serata, al limite ci sentiamo più tardi. Ditemi se sto andando bene del radio, sto andando col microfono normale, ok? Sì, ti ascolto forte e chiaro. Per me lo stesso. No, non problema. Io quanto ti arrivo, con questo affare che c'è un volta e mezzo? 9:10, sì. Quando invece si arriva la partenza sei 9:20. Roberto è quasi 9:30. Però è più vicino a me, dai. Più linea d'aria, ok? Entrambi comunque c'hai in vista, forse. Allora, io vedo Osimo bene, tutto il paese. Quindi poi vedo coso lì. L'Ibada non lo vedo, peccato. Però ci arrivo, ho fatto delle prove e ci arrivo senza problemi. Poi Sennori, in ottica, e poi più giù non lo so, perché vedo una cosa che non conosco, sembra un osservatorio col tetto, diciamo, a cupola, però non so cosa sia. Va bene, riprendi Roberto. Erano qua Claudio, quasi 9.35 sta arrivando. Ok, tu sei 9.20, Gianfra, segna gli ultimi tutti e due. Come non detto, allora, riprendi tu, Gianfra. Sì, no, in realtà, anche per rispondere a Claudio, non è tanto il fare le cose, è il fare le cose quando ti devi inchinare. Sì, c'è ragione, siamo rincoglioniti, però è rincoglionita soprattutto la schiena. Quando ti inchini è veramente una penitenza, e di lì, quando si tratta di mettere il figlio, di fare buchi per terra, ti devi inchinare per forza, è una penitenza. E la sua terra è bassa, come dicono qualcuno. Bassa e dolorosa. All'inizio magari è sopportabile, poi quando inizi a lavorare un pochettino e passano gli anni, inizia a uscirti la roba e i fianchi iniziano a cedere. Purtroppo è così, d'altronde la vecchiaia presenta così, c'è poco da fare. Ieri sera ho acceso un pochettino, non c'era nessuno, c'era abbastanza propagazione, molto forte, però era molto larga, c'era anche la Romania, ho sentito, Spagna, Germania, un po' da tutte le parti, ma segnali fortissimi, in FM erano a bomba, qualcuno in banda laterale, molto forti. A tratti, adesso ad esempio vedo solo due segnalini discreti, un po' in alto. Però nel complesso non è paragonabile a ieri. Sì, sì, oggi è più tranquillo, è più pulita la cosa. Ok, mentre io ti sto arrivando, ricordami tu. Era d'estate, ripeti? Mentre io ti sto arrivando rispetto a Claudio, lui ti ha detto 9.20, ha detto Claudio, o 9.15, quanto ha detto? Non lo so già dimenticato. 9.20, tu 9.30 arrivavi da lui. Sto arrivando a 9.30 a te. No, Claudio ha detto che io arrivavo a 9.20 e tu 9.30. Io sono con un vato e mezzo di onda, chissà se dentro magari c'è qualche trimere, questo affare, solo che è invisibile, aprirlo mi distruggo la garanzia, c'è poco da fare, quindi non ne vale la pena. Aspetta che passo in modalità segnale. Tu sei più su di 9.20, l'ho guardato adesso da vicino perché era un po' di traverso, sei quasi 9.25, vai avanti, tu dammi un rapporto se vuoi. Mi sa che, vabbè, dove è con o senza modulato? Dimmi tutti e due, allora adesso ti metto a portante fisso e poi parlo. Ora, questo è modulato. Allora, di portante 9.30. Di modulato 9.35, ti manca un pochino per andartene a 9.40, questo arriva fino a 9.60, solo che questo non c'è la misurazione in dB metro, ma tra l'altro c'è la strana. Magari ci avrà qualche sottomenu e cosa. Quella radiolina che ti ho detto io, quella piccolina tipo pacchetto di sigarette, c'ha DBM pure, ti indica, e poi il rapporto segnale il rumore ti dà. È bellina per quello, è molto precisa, perché ho fatto delle prove in certe posizioni con l'antenna orientata, è molto sensibile, ti dico, cambia con l'antenna esterna, ho provato, ti cambia molto sensibile come indicatore, è molto preciso, ti devo dire. Sì, poi dipende, anche questo è preciso, però dipende dal tratto apparato, dalla banda, un po' da tutto. È una cosa un po'... Cioè, sui baracchini non puoi contare, perché veramente ce ne fosse stato uno di sicuro che ha avuto che adesso misurazioni serie, ma tutto sballato, tutto. Questo devo dire è abbastanza preciso. Vabbè, che è un paragone che non si può fare, però è così, non è cassa e cattura, è questa, in AM non si esprime come dovrebbe, non dico che mi occorrano i 4 watt, ma almeno dammene 3, dai. Poi vabbè, adesso non l'ho collegato, ma io c'ho anche i misuratori di campo, quelli professionali, quelli della UNAM, ne uno della Promax, uno della UNAM, quello che potete dare l'indicazione sempre per fare gli allineamenti delle antenne. No, per quello uso il Rig Expert 600, un apparato eccellente, ecco, però mi ha ricordato una cosa. Ma parecchio mi segna qualcosa, lo strumento invece non me la segna. dice che l'antenna sta andando benissimo. Qua c'è uno e quattro, uno e tre di stazionaria, cosa che va bene comunque. Quanto c'è di stazionaria? 1.3? Sì, 1.3, mentre lo strumento me ne dà, non aziona neanche la lancetta. Evidentemente per lui forse la potenza è troppo bassa per fare misurazioni, perché ci hanno anche questo con gli strumenti, e oltretanto devi dare almeno un paio di watt per essere proprio ad hoc. Aspetta, aumento però la potenza, vediamo cosa mi dà, se ci riesco, perché tutto un casino qua. Come si accendeva questa stazionina, quindi spostare questo qua, vediamo un pochino la radio, niente, proprio non ce n'è stazionaria a prescindere, anzi adesso sono calate anche sull'apparecchio a zero, che strano. Il segnale è aumentato? Sì, qua è superato il 9+3. Però boh, non mi piace. In questa modalità la radio non viene influenzata per niente, presumo, no? Perché i pilotaggi di questi sono proprio al limite. No, la radio è sempre pulita, chiara, come piacciono a me. Salottiera senza imperfezioni, molto molto gradevole. Volevo provare però giù questo apparecchio. No, solo una volta ho avuto occasione, pensavo che non mi sentissero, invece mi stavano rispondendo sotto. Ieri, parlando di accordamenti, di antenne, eccetera, eccetera, stavo facendo l'accordo proprio perfetto negli 11 metri su canale 10, proprio per vedere le differenze. Ecco, io ho il Magnum, l'MT3000 della Magnum, di accordatore esterno, sempre attaccato all'apparato per sicurezza e tutto. Ho fatto proprio la cosa millimetrica per vedere le differenze. Con l'antenna diretta ti permette il Magnum di andare in diretta oppure con l'accordatura. E ho visto che qualche fesseria di watt te lo dava in più quando si è accordato. Poi non mi sono ricordato, sono andato ad ascoltare in 80 metri, cazzo, guarda, vedo il ricevitore zero, tutto lo smitter a zero. Che cazzo è successo? Perché rimetti che c'è crepato il ricevitore, ha detto non funziona più l'apparecchio, non c'ha segnale, tutti debolissimi, anche quelli che dovevano essere fuori. Poi guarda, oh cacchio, sta andando accordato in 11 metri, proprio mi ha tagliato completamente tutta la mantova, tutta la banda bassa, diciamo, delle onde corte, onde lunghe, diciamo. E ho levato di nuovo l'accordatura diretto e sono rinati i segnali da zero, sono passati a 9, qualche segnale ieri erano anche 9.40, segnali molto furti, non so di che cosa erano, perché c'era della musica leggera, non era musica, la solita musica cinese o araba, c'erano segnali ieri fortissimi. Infatti ho detto cacchio, basta che tu che appena l'accordatore te ne mangia completamente la ricezione, non pensavo che fosse così evidente il problema. Qua mi segnala che c'è Natalino in ascolto, strano, è normale comunque, l'accordatore ci aumenta la selettività perlomeno sulla banda, quindi ti taglia totalmente, a meno che non ci siano bande risonanti, ti taglia totalmente il segnale. Vediamo un po', Natalino, sei tu quello, mi sembra di vederti. Oh, vabbè, guarda se c'ho rumore di alternata. No, sei pulito là. Ok, grazie. Tutto a posto. No, ma allora, normalmente te ne accorgi in trasmissione, ma in ricezione non pensavo che, almeno con l'altro accordatore che avevo, vabbè, era un accordatore di quelli economici della ZG, cos'è, il TM1000, non mi succedeva quello, mentre con questo della Magnum forse è molto più selettivo, non lo so, ma proprio mi ha completamente chiuso tutte le bande basse, diciamo intorno ai 1000, 2000, chilo è. Sì, Claudio, anche da me nessun problema, tranquillo. Ieri stavo guardando, sono appassionato di storia, la cosa di disbilettare, no? Di nubile. Praticamente il problema della radio era che loro usavano le onde corte, e quindi utilizzando le onde corte, che poi sarebbe interessante capire la frequenza, dovevo cercare, utilizzando le onde corte sono stati ascoltati non dalla nave che era relativamente vicina, ma da uno che era in Russia, quindi molto molto distante, e questa è stata una delle cause di tanti ritardi, ecco. Cosa vuol dire avere delle radio che possono cambiare di banda, visto? E sarebbe anche interessante capire che tipo di antenna c'avevano, io penso un dipolo dato la stazione, il tutto perché era una radio per grandi distanze, perché dovevano comunicare con l'Italia, solo che quando sono caduti a terra radio d'emergenza non ne avevano a quell'epoca, in onde ultracorte. Sì, grazie a una matita se la sono cavati, e quelli che c'è una resistenza rotta e l'hanno autocostruita. E adesso poi quando ci sono delle menti illuminate, come io ho visto, ho letto su questo campo di concentramento cosa avevano costruito questa radio, ma con delle lamelle facevano le cose variabili, i condensatori non so con cosa li facevano, erano riusciti a costruire una radio trasmittente, non solo ricevente, perché ricevente è semplice, con la galena, e questi erano riusciti a fare una radio trasmittente con cose che impensabili, avevo letto degli italiani, tra l'altro erano questi, quando l'hanno visti gli americani sono rimasti scioccati, cioè, ma non è possibile l'ingegno, l'inventiva di queste persone, cosa sono riusciti a fare? Infatti è così. Perché allora devo attestare, non è che fossero già la 27 era considerata VHF a tutti gli effetti. Ma ad esempio i nostri caccia, i macchi, quelli lì, utilizzavano, figurati, la 2 MHz. Guarda, io sono iscritto in un gruppo che si chiama Antenne Tralicce, sono dei professionisti allucinanti, puoi vedere cosa costruiscono questi, costruiscono cosa montano, Tralicce sia di telefonia, televisioni, radio, ma anche punti allucinanti, cose da fantascienza, cioè Tralicce di 160, cioè ci sono, sono un gruppetto di amici, uno l'ho conosciuto perché io ho un apparecchio particolare, c'hanno anche un museo questi, mi ha chiesto se glielo davo per il museo, preferisco tenermelo. Questo tipo, ma sono veramente persone super competenti, parliamo di antennistica, di apparati di trasmissione. E stavo guardando una cosa, hanno pubblicato questa, una foto degli anni 50 della RAI, proprio alle alburi della RAI, della televisione italiana, e non sapevo che la Magneti Marelli costruiva dei trasmettitori, questi trasmettitori della RAI di 5000 watt erano costruiti dalla Magneti Marelli, l'alta frequenza, e idem le antenne paraboliche che erano di quelle a rete, a reticolo, dai. Non erano neanche, se le vedi, sembriamo ai tempi, non lo so, della guerra mondiale, mentre la bassa frequenza, tutte le camere, mix, quella era tutta roba americana, ma non sapevo che noi avevamo la Magneti Marelli che costruiva queste, e c'è proprio l'armadio con il trasmettitore e tutto l'impianto, l'impiantistica, le valvole, eccetera. E mi hanno colpito queste antenne, se tu le vedi rimane così a bocca aperta, ma degli ingegneri allucinanti, cioè, eravamo già all'avanguardia nell'epoca, negli anni 50, cioè eravamo autosufficienti, non andavamo a cercare roba da altre parti. Sì, quello sì, anche come valvole. Un altro grosso problema dalla seconda guerra mondiale per tutti, perché erano fatte in modi particolari e quindi erano molto difficili anche da sostituire. Tu pensa che c'è una stazione storica, ovviamente oramai, di quell'epoca, che trasmette in, non so se siano in 40 kHz, adesso non ricordo, però devi vedere, c'ha come trasmettitore, usa direttamente un alternatore, che è una cosa enorme, lo devono avviare prima questo coso per dare non so quale tensione, di parecchi kilowatt, e poi fanno il coso lì telegrafico. E durante questi anniversari mandano a chi ascolta anche la cartolina. Io mi ricordo che l'avevo sentito proprio sulla bassa frequenza, forse usavo allora il TS2000, perché quando già ci arriva, spendo intorno ai 30, o più sopra dei 30 kHz, quindi una frequenza proprio bassa, bassa, bassa. No, a 30 non ho mai ricevuto, però intorno ai 170, 80 kHz ho ricevuto qualcosa. Sono stazioni francesi, erano più che altro. I francesi sono molto attivi, nonostante i tempi che esiste il satellite, l'internet, sono molto attivi come numero di stazioni trasmittenti, in onde cortissime, in onde lunghe, in onde corte, eccetera. La cosa che gli italiani stanno abbandonando. Quello che mi colpisce è c'è una frequenza italiana doppia, adesso non so se una arriva a Roma, l'altra arriva a Rosso, lo stesso canale, Radio 1, una è completamente, non so se ti è capitata di sentire, con un effetto ecco rimbombante, tipo evanescenza, una cosa del genere, ti è capitata di sentirla, ed è la stessa frequenza identica a quella che trasmette su un altro canale, un po' più forte, però sembra questo effetto ecco, ma sono da anni che lo sento questo effetto, infatti come è possibile non se ne siano accorti? Ma non da me. Sì, non da media. Che dove era? 500, no, 560, cioè quella araba fortissima. 580 credo, o 600 e qualcosa, più di lì, no? Più o meno, perché l'altra, la fondamentale è intorno ai 1000, quella mi sembra che sia intorno ai 600, ma quello che mi colpisce è che con questo effetto camera tipo un eco, un rimbombo, infatti non è possibile che non se ne accorga, cioè la RAI era una di quelle, un punto di riferimento per la qualità di emissione, di queste sono già un paio di anni che stanno andando così, dopodiché non parliamo degli 88 e 4 qua di Sassari, i problemi che c'ha con la frequenza, ogni tanto si blocca, si abbassa di segnale, non so cosa cavolo stanno combinando. Per non parlare delle spurie che c'hanno anche, non so, dal micidiale. Quindi sto andando a cercare quello che mi ha detto, però mi sa che non c'ho antenna, cioè o meglio non c'ho antenna, non tenacelo a vedere qual è. A vedere che cosa? No, siccome ce ne ho tante, anche per HF. Ogni tanto mi perdo l'antenna in cammino, infatti per una volta, fortunatamente gli apparati di oggi non sono quelli di una volta se facevi questi rudi lo bruciavi seduta stante se andavo in trasmissione, adesso invece c'hanno tutte le protezioni, ti dico anche dove va. Allora scendo, sì sono a 30 qui, va a 30 mega, da 30 kHz. È attiva a 30 kHz questa stazione. Dico, in questo momento è attiva. Ho fatto casino? No. Ogni tanto mi devo. Ti ho parlato sopra, ho detto è attiva a 30 kHz adesso in questo momento. No, ho detto l'apparato scende fino a 30 kHz. Siccome sto cercando i commutatori. Però vedo perché è a Carogna. Vediamo un po'. Sì. Adesso forse un'antenna è giusta. Antenna è giusta. No. Ma non c'è. Che figura. Anche io lo stesso ho, con le MT3000 ho tre commutazioni più la diretta, poi un'altra linea che alimenta un'altra serie di apparati, non bastano mai i commutatori. Sì, ma il fatto, io a me stesso mi dico una cosa, ma ti costa così tanto fare delle etichette adesive e mettercele su questo benedetto coso? No? Aia. Vabbè, dopo quel cambio non vedo la mazza. Perché vuol dire che sto sbagliando antenna. Qua cosa succede? Comodo. Mi è arrivato il segnale. Guarda sulla sera. Per carità. Perché poi c'è anche il coso dell'accordatore che ne gestisce altre tre. Quindi fate il conto. Io adesso, quando c'ho tempo che monto l'altra antenna, mi ha dato un amico carissimo un coso, uno di quelli della Ameritron a 5 posti, così posso gestire 5 antenne diverse con un ecocavo oppure 5 apparati e viceversa al contrario. Però voglio farlo così e così lo proviamo, un relè coassiale. Guarda, salendo c'è sempre quel rumoraccio, ma forse lo senti anche tu. Vediamo un po'. No. No. Quindi era sotto i 7 comunque, giusto? Io ho sentito qualcosa sotto, una voce, qualche modulazione sotto. Ma su che frequenza eri? 7000? No, quella era spagnola. Vedi? Sta qua la 580, c'è cioè questa alternata, non so se si senta. Ecco. E poi sotto, la 65, chi c'è? Boh. Yeah, avanti. Roberto, ci sei? Vediamo un po', sì. Antennaccia. Gianfranco. Sì, chi è? Avanti. Natalino, Gianfranco. Natalino, sì. Se... Eia. Ti avevo detto che c'eri poco fa, ma non mi ha risposto. Guarda, non ho sentito che stavo facendo cosa qua. Infatti, quindi, la radio ha detto la verità. Mi ha detto, guarda, c'è Natalino. Poi, ma niente, sei sempre molto, sentono sempre il rumore di fondo in una maniera micidiale. Adesso è spenta però la televisione. Adesso va bene, però si sente anche il cric crack del microfono. Se non è che magari lo abbassa, aspetta un attimo. Proprio così, guarda un po'. Ah no, la radio va bene, non è che ti sto dicendo che va male, però si sente come prima, si sente il tac, quindi è molto sensibile, diciamo così. C'è anche Roberto, poi mi è sparito, infatti se non capivo se stavo con montando l'antenna, se era senza antenna con l'antenna, non c'è l'antennaccia. Sei così, Natali. Tu sei un po' bassino di radio. Perché sono mandrone a cambiare questo microfono. C'ho l'altro che è molto più forte. E tra l'altro non mi ricordo neanche dove l'ho messo. E niente. Un mic normale comunque. Sì, vabbè, c'è un mic normale. L'importante è che mi senti. A voglia. Non ti sento amplificato, ma già ti sento. Adesso mi hai fatto venire il dubbio e mi tocca andare a cercare il microfono, lo faccio buttare. Qua ne ho 5. Aspetta che guardo qual è quello di questa radio. Ehi, cappa, già sono qui, già non scappo. Oh, Natali. E chi è? Radio. Ascolta, tu te lo ricordi qual è il trimmer dell'RF Gain del Galaxy? RF Gain però è non lo Smitter. No, non me lo ricordano. Sì. Già è un anno che non metto più mano agli apparati. Cioè, l'RF Gain sta dato, devo rioperare, però non so qual è il trimmer. Se entra Giulio glielo chiedo. E cappa. Rieccomi, Natali, va meglio è la stessa cosa. No, adesso già sei tu. Perché questo modo sono un maestro. Sì, di norma utilizzavo questo, però poi non ho messo quello perché fa benissimo in portatile, è tutto lì. E ci ha pensato Claudio, non l'hai sentito? Sì, era qua anche poco fa. Sta facendo delle prove, tocca un po' qua un po' là Claudio, magari con un po' di fortuna lo trovi, almeno quello c'è di grandi trimmer. Magari sposto qualcosa che non devo spostare, meglio fare le cose fatte bene, non lo so qual è, ce l'ho aperta, vediamo se entra qualcuno che lo sa, me lo faccio dire, lo taro bene, perché ritarda troppo, capito? Perché che deve aprire e chiudere subito, questo ritarda troppo, quindi sicuramente vuole registrato. Cos'è che ritarda? Cioè, è abbiamo proprio la DRF Gain che praticamente ti dà segnali bassi, oppure nello smitter vedi che scende piano piano? No, segnali bassi sono, quello è regolato perché il trimmer dello smitter è regolato bene, è proprio un problema di DRF Gain, capito? Così porto i segnali giusti con l'altro radio, però lascio stare così, sicuramente l'hanno toccato, io l'ho comprato usata, è nuova però. Ho visto che qualche trimmerino l'hanno toccato. Sì, come sempre. Dimmi il modello che te lo cerco, se c'è lo schema. Guarda che ci sia Tornecco, guarda che sia Tornecco. Sì, sono quei VR, VR8, VR10, VR12, VR14, VR11, tutti quelli sono. Sì, sono, ho capito che avessi sotto Tornecco. Oh, c'ho questo anche il mouse, mo, che si imballa. E guarda già fra il computer tu sei pratico. Apri, sono questi VR. VR dovrebbe partire dall'1 sino al 16 mi sembra. E uno di quelli è l'RF Gain. Guarda a vedere. Così lo vado sul sicuro. E quindi, allora, adatto il coso, vediamo un po'. Se non divento scemo con questo caspita di cosa, quindi adesso sto prendendo l'apparecchio, quello col trasformatore grande, ci ha dato parlante frontale, e la radio vera e propria è chiusa da una specie di scatola in alluminio, sembrerebbe, in cui sopra c'è un fusibile, è quello? Ho capito Gianfra. Allora fammi dare l'apparecchio aperto. Vediamo un po', la prima cosa che si vede, ma guarda questi, la prima cosa che si vede è questo trasformatore grande con un condensatore che occupa metà scatola praticamente, è quello? Sì, quello lì con la scatola grande, sì. Ecco, la radio è all'interno di una specie di non dico che sia una scatola perché senza coperchio, ma di protezione in alluminio. Guarda il telefono, scusate, guarda il telefono qua. Sì, grazie Giulio. Beh, ha già fatto prima di te Giulio, me l'ha mandato Giulio. Grazie Gianfra. Ho già visto qual è il VR1. È il VR1, ok. RF, detto Paolo, smette trasmissione. Sì, adesso lo faccio. Grazie Gianfra. Figurati. Ciao Giulio, mi ha ascoltato. Ma è il Galaxy 2? Sì, Saturnecco 2. Saturnecco, Galaxy Saturnecco, il base, 2 non c'è scritto, c'è scritto Galaxy Saturn, ecco. No, perché c'è anche uno schema totale, ma qua mi ha preso a premere e ti manda su altre pagine, che palle. Ok, avanti Giulio, buonasera. Ciao Giotta, ciao Claudio. Altri ci sono, io sono appena arrivato adesso. Ho sentito proprio Claudio, proprio in quel preciso istante che stava chiedendo quella informazione lì. Va bene, dai. Avanti qua. Sono rientrato io. Sì, Giulio, grazie. Dammi un secondo che controllo. Ecco. C'è stato un blocco avanti. Ciao Roberto intanto. Vai. Ok, ciao Giulio. E saluto tutta la ruota. Ho acceso in questo momento, ho sentito VR1, però lui non sta cercando a regolare lo smitter, sta cercando l'RF Gain, non è il VR1. Ciao Massimiliano, vabbè, quelli sono, i VR sono quelli, poi l'RF Gain non lo so se ha un trimmer apposito, non lo so la verità, l'RF Gain non lo so, ma suppongo che sia sempre corrispondente a quello dello smitter, non lo so. No, uno è la ricezione della radio, uno è la regolazione dello smitter. Io ho il coso aperto, dovrebbe essere L4, L3, quindi AM, FM. L, Massimiliano, ciao, buonasera, non so se mi ascolti, L? Eia, L, L3, L4, provalo prima uno, guardati il segnetto. Non è il VR serve per regolazione dello smitter, sia in ricezione e sia in trasmissione. Va. Ok, buonasera di nuovo a tutti, avanti Roberto. Ciao Massimiliano, ben sentito, c'è anche Gianfranco, avanti Gianfranco per Massimiliano. Sì, ciao Massimiliano, buonasera, c'è anche Natalino, Natalino, riprendi. Dai, vi ascolto che sto cenando. Ciao Natalino, non t'avevo sentito. Ti avevo detto che c'era. Niente, riprendi Giulio, adesso lo sto guardando anch'io, i trimmer abbastanza grandi, anzi enormi, ne ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, così a prima vista. Ok, dovrebbero essere in tutto 16, 15, 16, una cosa del genere. Ciao Natalino, intanto, anche se siete buoni quelli, ti saluto. Va bene, dai, comunque le regolazioni da fare sono quelle sul VR. Avanti, Robè. Di cosa state parlando? Di che trim è stato regolato? Del Saturnecco, della gara di Saturnecco, delle RFG, vuole sapere Claudio, ma delle RFG non risulta un trim VR, assolutamente, non lo so, la verità, può essere che sia abbinato a qualche altra cosa, non lo so, non so cosa dire, forse al balance, non lo so, comunque, vedremo, dai, avanti Massimiliano. Sì, sì, positivo, allora, il VR non c'entra niente con la RFG, ok, allora, il microfono che tu a tratti sta andando, allora, in poche parole, VR13, VR14, quelli non c'entrano proprio niente, che sono tutti in serie, tutti in fila, per regolare RFG L4, L3. Questo non lo so se sono quelli, interessante non toccare bobine, Claudio, non toccare bobine, tocca solamente resistenza e basta, perché VR sono resistenze pratiche, non toccare bobine. Prima guardati, prima di muoverlo, guardati il punto, magari te lo segni, al limite lo riporti lì e vedrai che magari riuscirà a trovare, non lo so, va bene, dai. Comunque va bene così. Poi chi c'era, oltre a me, a te, Gianfranco, Claudio, oltre a Claudio, poi mi sembra che c'era qualche altro o no, o sto sbagliando io, comunque fai girare tu Gianfranco, vai. No, è rientrato anche Roberto, quindi lo riprendi Roberto, comunque è a 0655, quella italiana. Sì, più o meno la memoria era quella lì, adesso non la ricordo esattamente, ma era più sotto di 1000 sicuramente. Ciao Giulio, non ti ho salutato, anche se ho parlato non ci sono salutato, no, toccare quei trimmerini, diciamo, bisogna stare molto molto attenti, perché sono troppo sensibili e delicati, basta ne tocchi uno, poi devi riallineare l'altro, si fanno con gli strumenti, con le cose, con i generatori di segnali, eccetera. Meglio mai mettere, perché regoli uno smitter lo puoi fare, ma quando devi toccare altre cose, sensibilità di apparato, cose, è meglio farlo fare con una strumentazione, se no si rischia di fare danno e buco. Ok, di nuovo a te Massimiliano. Sì, sì, positivo, volevo sentire Claudio, vediamo un po' se ha risolto qualcosa. Claudio? Non lo trovo questo L, ma ti butto la lente in ingrandimento, ma non lo trovo. Pare che sono io al centro quasi, dove c'è il PLL, so. Al centro della... ma sono uguali a quelli VR o sono diversi? No, sono diversi, sono in plastica. Ok, quelle sono bobine, no, sono VR variatori di resistenza, sono dei variabili resistivi. No, Gianfra, non sono VR, questi sono L3, L4, non c'è scritto niente VR, non c'entra niente VR. Appunto, ti stai dicendo che sono bobine, quelle sono molto delicate, attento Claudio, perché quelle no, in genere non si devono toccare. Va bene, dai, sono troppo sensibili e poi sono a parte la sensibilità che batta un millesimo di millimetro di rotazione di grado e cambi tutto. Il problema se le rompi, se fai appena appena di forza, magari mal fatta, spingendo le rompi in un macello. Bisogna riallineare tutto l'apparato, perché non è che ce la compri nuova, la metti nuova, bisogna rifare tutto il riallineamento ed è una cosa un po' delicata. Ok, Gianfranco, poi stavo dicendo quella 30 kHz sta funzionando? No, quella che dico io la accendono una volta all'anno, anzi due volte all'anno, per commemorazione della stazione, capito? Niente, sì, confermo, sono bobine, attenzione, se si toccano quelle, chiuso. È un apparecchio molto disordinato, devo dire, come schema, sembrerebbe un altro apparecchio messo dentro una scatola più grande, semplicemente. Tipica cosa che facevano sui Galaxy. Con aggiunta un alimentatore nello scatolone grande, ma... cioè uno schema un pochettino più ordinato, già lo potremmo fare, tutti i fili, filo qua, filetto lì, mamma mia, cioè ti prende l'ansia. È il Pluto, il Galaxy Pluto messo dentro uno scatolone con l'alimentatore, è preciso i denti. Esatto, hanno fatto proprio quell'operazione, perché così, ci hanno messo poi questo, vedo anche il fusibile che è vicino alle parti metalliche, no? Non è molto, secondo me si porta dentro anche disturbi con la non scarmatura di tutti i cavi, che passano tutti vicini, tutti un macello, guarda. Comunque, è così. Sì, a 655 si sente abbastanza disturbata, devo dire. Ok, di nuovo Giulio per Mike. Ok, no, adesso stavo pensando per Claudio se stai ascoltando. Tu hai parlato del RFG, il RFG praticamente non è altro che un potenziometro ed è una resistenza in pratica, e prova a mettergli un po' di quel disossidante per il potenziometro lì. Può essere che sia quello che magari tarda ad agganciare, può essere che sia quello, metti una passatina di quella, una spostatina di quella per i contatti e poi fai un paio di giri su e giù e magari può essere che si riprenda, perché penso che sia sporco il potenziometro, per il difetto che tu hai detto Claudio, se sia l'ascolto, vai. Sì, sto controllando, ma non è quello, no, assolutamente, non è quello lì. Ma che problema ti fa Claudio, per curiosità? Ho segnali bassi, non sono giusti, e il VR1 e il VR2 sono regolati bene, capito? C'è qualcosa che non mi convince, sicuramente sull'RFG, però non riesco a trovare questa cosa. Ma scusa, se hai detto che ti arriva 921, 930 io l'altro, dove dei segnali bassi? Vabbè, guardo con l'altra radio, con l'altro, con l'Elbex, con la Galaxy, no, l'ho acceso adesso e no, non corrisponde con l'Elbex, capito? Devono essere uguali i segnali. Vabbè, mi avresti tarato nello stesso modo lo Smith, perché io quando avevo i 440, poi con 140 avevano due regolazioni diverse, alla fine me li ho fatti allineare tutti e due uguali, perché uno li bastavano 150 microvolt per avere un S9, nell'altro ce ne volevano 300, e tu dici cacchio, come mai qua arrivano 20 e nell'altro 9? Alla fine ho scoperto che il manual service ha operature diverse, anche io se guardo nel DCR7000 i segnali che qua arrivano 9,20, di lì sono 9, è un diverso tipo di taratura, c'hanno, ma non significa che ci ha sballato lo strumento. Vabbè, dunque adesso ci sto controllando, dai, vediamo un po'. A me Massimiliano, tutto a posto. Ehi, a Claudio, tutto a posto, mi stavo aspettando a rilanciarmi, che vi saluto, sono entrato così, dai, ho sentito Claudio per la prima volta dalla zona nuova, e va bene, dai, vi saluto, buona sera a tutti, dai, riprendi tu Claudio, e niente, ti saluto, ciao. Ciao Massimo, un abbraccio, dai, ci sentiamo per telefono, ti arriva bene comunque, Galaxy è microfono normale. Sì, 9-5, sì, qua. Ah, va bene, importante, ci sentiamo, dai. Ciao Massimo, un abbraccio, grazie per essere entrato per l'intervento, adesso mi controllo con la lente, non vedo questo cacchio di DL, perché non lo vedo. Avanti Giulio, riprendi tu e fai girare quel RX per me. Ok, d'accordo, ciao Massimiliano, allora, grazie per essere entrato almeno a scambiare due chiacchiere e soprattutto per salutarti. Ci sentiamo le prossime, faccio girare per salutarti, a dopo allora Claudio, avanti ciao qua per salutare a Massimiliano. Sì, ciao Massimiliano, buona serata. Alle prossime. Claudio, guarda che comunque L non significa variabile, L sono istanze regolabili, quindi la regolazione di linea non si può fare senza strumento. Se tocchi quello, cosa succede? Ma volevo capire, Claudio, tu il QRM lo senti forte, senti tutte quelle cose, cioè non è un apparecchio sordo, in parole povere.